Economia in Europa. In collaborazione con Euronet. L'Italia è al centro dell'attenzione di tutti gli osservatori internazionali, con le incertezze sulla situazione politica e la fiducia sul debito pubblico che è precipitata molto rapidamente. Questi temi al centro della cronaca economico-finanziaria di questa puntata di Economia in Europa. In Europa in questi giorni si parla soprattutto di Italia, in particolar modo dal punto di vista della cronaca economico-finanziaria. La settimana è iniziata con gli annunci di Bruxelles a proposito degli impegni italiani contenuti nella famosa lettera inviata dal nostro governo all'Unione. Ci aspettiamo che il ministro Tremonti spieghi all'Eurogruppo i dettagli della lettera di impegni inviata all'Unione Europea. Lo ha detto lunedì il portavoce del commissario europeo agli affari economici e monetari Olli Rehn, spiegando che gli esperti di Bruxelles saranno a Roma settimana. Proprio lunedì si è iniziato a parlare di un questionario inviato a Roma dalla Commissione europea per chiedere chiarimenti sulle misure indicate nella lettera di intenti presentate da Berlusconi al vertice del 26 ottobre. Sentiamo il portavoce del commissario agli affari economici Olli Rehn, Amadeo Altafagi. Indeed, Italy will be part of the discussions this evening in the Eurogroup meeting. Senza dubbio, l'Italia sarà uno dei temi in discussione all'Eurogruppo di stasera. Aspettiamo di sentire dal ministro Tremonti i dettagli degli impegni contenuti nella lettera inviata all'Unione Europea e precisamente ai presidenti Barroso e Van Rompuy. Per soddisfare il mandato che è stato dato alla Commissione, abbiamo inviato un questionario a Roma, alle autorità italiane, per chiedere chiarimenti sulle misure indicate nella lettera di intenti presentata al vertice del 26 ottobre. Allo stesso tempo si chiedono indicazioni anche sul maxi emendamento. In particolare, il questionario chiede chiarimenti su tempi, azioni concrete e ricadute sul bilancio delle misure che sono state proposte. Sono essenzialmente questi gli elementi del questionario. La missione di monitoraggio della Commissione europea sarà a Roma questa settimana. Questa missione è indipendente da quella di verifica trimestrale del Fondo Monetario Internazionale, ma siamo chiaramente in contatto. Siamo autonomi, ma coordinati con l'FMI. Ma non è una missione comune. Ad Amadeo Altafagi, portavoce del commissario agli affari economici e monetari Olli Rehn, è stato poi chiesto cosa succederebbe al programma di monitoraggio delle misure anticrisi su cui l'Italia si è impegnata con l'Unione Europea se cadesse il governo Berlusconi. Sentiamo cosa ha risposto. Non possiamo prevedere ciò che accadrà a livello politico, ma abbiamo un compito da svolgere e agiamo su questa base. Il nostro staff sarà a Roma questa settimana per avere chiarimenti da parte delle autorità italiane attualmente in carica. Se la situazione politica cambia, sarà l'Eurogruppo a prenderne atto e a dirci cosa fare. Ciò che non cambia ai nostri occhi è la diagnosi della situazione economica in Italia. La missione è di natura tecnica, è una missione in cui i nostri esperti incontreranno alti funzionari di diversi ministeri, per esempio delle finanze o del lavoro. Non devono incontrare Berlusconi e nemmeno Tremonti, perché gli esperti devono analizzare i dettagli della lettera. Sarà poi il commissario Rehn, a livello politico, che presenterà il rapporto all'Eurogruppo. Le conclusioni politiche saranno tirate qui a Bruxelles sulla base delle indicazioni tecniche raccolte dai nostri esperti a Roma. Tecniche recueillie par nos experts à Rome. L'inizio della settimana non ha certamente contribuito a calmare le acque sui mercati azionari ed obbligazionari. Nonostante l'intervento di acquisto della Banca Centrale Europea sui titoli italiani, lunedì lo spread BTP Bund ha toccato un nuovo picco a 490 punti base, con i rendimenti del decennale arrivati al 6,67%. Col diffondersi delle voci sulle dimissioni di Berlusconi, queste cifre hanno però iniziato a scendere vertiginosamente, mentre la borsa, partita a ribasso, saliva. Una tendenza pronta ad invertirsi poco dopo, con la smentita delle indiscrezioni e a cambiare ancora nel pomeriggio. Il rischio Italia è dominato sicuramente dalla situazione politica, sia da un punto di vista interno, sia da un punto di vista esterno all'Italia ed europeo. E questa è la riflessione che prende anche in considerazione il ruolo di Unione Monetaria e Unione Fiscale, fatta martedì da Lorenzo Pagani di PIMCO. Quello che domina adesso è sicuramente la situazione politica. E questo sia dal punto di vista interno, per quello che riguarda la chiarezza riguardo le politiche economiche, sia dal punto di vista esterno all'Italia, ma pur sempre dal punto di vista europeo, per quello che riguarda quella che sarà la situazione in Grecia, quello che sarà la protezione rispetto ad un contagio e il perfezionamento a lungo termine di quella che è l'Unione Europea, che oggigiorno è tutto sommato un'unione un po' imperfetta, perché abbiamo un'unione monetaria ma non abbiamo chiarezza sull'obiettivo di unione fiscale. Il problema fondamentale, vede, da parte degli investitori è che gli investitori sono abituati a guardare agli investimenti, a cercare di analizzarli, a determinare quello che può essere il rischio e il prezzo. È un po' come se fossero abituati, diciamo, se ci fosse una macchina e fossero abituati a guidare la macchina. Oggigiorno gli investitori sono sul sedile posteriore, la macchina è guidata dai politici, dalle banche centrali. E il problema è che fra l'altro i politici, invece di guardare da fuori dal finestrino, sembra che stiano litigando tra di loro, non sono chiari su qual è la destinazione. E quindi al tempo stesso, fra l'altro, prendono delle deviazioni, e stare su questo sedile posteriore è molto difficile per gli investitori determinare quelli che sono gli effettivi fattori di rischio in questo momento. Martedì sera l'Aula della Camera ha approvato il disegno di legge di rendiconto generale dello Stato per il 2010. I voti a favore sono stati 308, nessun contrario, un astenuto. I non votanti sono stati 321. Il governo è rimasto quindi senza maggioranza alla Camera, notizia a cui il mercato ha reagito restando in attesa e cercando di capire quali sarebbero state le conseguenze. In merito alla risposta del mercato, anche il commento e le previsioni rilasciate in un'intervista a Sebastiano Barisoni poco dopo l'arrivo della notizia da Guido Gentili, ex direttore ed editorialista del Sole 24 Ore. Siamo sicuramente in una fase di attesa che può durare anche pochissimo tempo, nel senso che sicuramente il Presidente del Consiglio Berlusconi dovrà confrontarsi con il Presidente della Repubblica, quindi io immagino a tempi ravvicinatissimi un confronto al Quirinale sul da farsi. Sulla scelta che farà Berlusconi, io dovessi fare azzardare una previsione tra le varie ipotesi, cioè quella di indicare un nuovo nome del centrodestra come premier, quella di dimettersi e quella di attendere la prossima settimana, io sarei su questa terza ipotesi, cioè nel senso di confrontarsi in Parlamento sul pacchetto, chiamiamolo Europa, quindi sul famoso maxi emendamento alla legge di stabilità, e su quello probabilmente, se i numeri verranno confermati, la tendenza di oggi verrà confermato, cadere, diciamo, sul pacchetto Europa, il che però ovviamente questa è la strada che porterebbe poi più facilmente dritti verso le elezioni. Questo secondo me è lo scenario. Poco dopo, nella serata di martedì, Berlusconi ha annunciato la sua scelta al Presidente della Repubblica Napolitano, quella di dimettersi dopo l'approvazione della legge di stabilità. La reazione dei mercati alle evoluzioni politiche però è stata ben diversa da quella che i più ottimisti si aspettavano dopo tale novità. Nella mattinata di mercoledì lo spread fra il BTP decennale italiano e i Bund tedeschi ha superato i 570 punti base, con il rendimento che è andato ben oltre il 7%, una soglia che molti individuano come l'indicatore di un livello di crisi del debito che ci accomunerebbe alle sorti di Grecia, Irlanda e Portogallo. E poco ha potuto fare l'intervento della BCE, che dalle 10.30 ha iniziato a comprare obbligazioni italiane. L'effetto è stato quasi però nullo. A favorire le vendite dei nostri titoli di Stato ci si è messa da mercoledì mattina anche la London Clearing House Clearnet, che gestisce la stanza di compensazione per le transazioni internazionali di bond e pronti controtermine. La società indipendente londinese, seconda per importanza al mondo, ha infatti aumentato i margini di garanzia sui BTP. Sentiamo la spiegazione di questa notizia da Jacopo Ceccatelli, amministratore delegato di JC Associati. La London Clearing House, cioè la casa, l'organismo di regolamento, se vogliamo... La Consob inglese? No, è una sorta di monte titoli inglese attraverso la quale però... Una cassa di compensazione. Una sorta di cassa di compensazione attraverso la quale... transitano moltissimi titoli di Stato italiani, anche di banche italiane, ha deciso di aumentare i margini di garanzia. Cosa vuol dire? Che i titoli italiani siano molto rischiosi da scambiare e di conseguenza a oggi, rispetto a ieri, ha aumentato del 5% i margini. Vuol dire che in pratica se io consegno a questa London Clearing House 10 milioni di BTP, prima mi bastava avere presso questa entità circa 600 mila euro di denaro a garanzia che ovviamente lo scambio sarebbe stato effettuato e non ci sarebbero stati problemi, oggi ne chiede quasi il doppio, ne chiede circa 1,2 milioni, quindi il 12% sul nominale, e di conseguenza questo ha dei risvolti tecnici che sono difficili da capire ma molto significativi, quindi non escluderei che ci sia anche un aspetto tecnico di questo tipo. Insomma, la risposta dei mercati alle decisioni della politica italiana sembra essere proprio questa: il paese fuori tempo massimo e il fatto che le dimissioni annunciate del Premier non siano accompagnate dall'indicazione di tempistiche precise lascia margini troppo larghi che non ci si può permettere. Come fare per uscire da questa situazione? L'Italia deve recuperare la fiducia dell'Europa e del mondo intero. Sentiamo in conclusione il commento di Roberto Napoletano, direttore del Sole 24 Ore. L'Italia deve recuperare velocemente... come ho scritto appena qualche giorno fa, la fiducia nel mondo. Non esistono alternative a queste. La fiducia nel mondo si recupera con persone credibili per la loro storia, persone che sappiano parlare la lingua dei mercati e la lingua degli stati, persone che sappiano parlare ai paesi della zona euro, ma anche al Regno Unito, anche agli Stati Uniti, alla Svizzera, ai nuovi ricchi, e che sono i poveri di una volta, a partire dalla Cina, perché bisogna parlare con una lingua che loro comprendono e a questa lingua devono corrispondere i fatti che la storia di questi uomini ci permettono di ritenere che avvengono. Quindi il primo, adesso al di là di tutto, è ovvio, siccome non abbiamo il tempo, non è che è scaduto, è arciscaduto, quindi noi attendiamo che già in questo maxi emendamento ci sia, a me non piace dire che ci sia quello che ha chiesto l'Unione Europea, a me piace che ci sia quello che noi avremmo dovuto fare da almeno due decenni, quindi che ci sia anche di più e magari di differente rispetto a quello che era scritto nella lettera dell'Unione Europea, ma ci sia qualcosa che consenta al mondo di tornare a investire sull'Italia. Non abbiamo scorciatoie. I suggerimenti fai da te, che con troppa leggerezza si diffondono in questo momento, non servono, nel senso che è encomiabile, è apprezzabile. Ti riferisci all'appello lanciato dall'imprenditore che mi ha avuto ospite ieri a comprare il debito? Se gli italiani si comprassero il debito, metteremmo in sicurezza i 307 miliardi di emissioni dell'anno prossimo. No, ovviamente io questo l'ho scritto anche l'altro giorno, nel fondo sappiamo tutti che le famiglie italiane detengono, sono dati di Banca Italia, poco più del 14% dello stock del debito, con conteggiando quanto c'è nei fondi esteri, come stima si può arrivare al 20%, da un quinto, se raddoppiasse lo sforzo arriviamo a due quinti, quindi è importante che ci sia uno spirito di mobilitazione a difesa del paese, ma il paese si difende con gli uomini che lo rappresentano e facendo le scelte che fino ad ora non hanno fatto. Questa è la via maestra, non esistono scorciatoie, non esistono alternative a questa strada obbligata per recuperare velocemente credibilità. Se facciamo questo, il dato di fondo di questo paese, cioè un'economia dove c'è un sistema imprenditoriale che resta tra i più grandi esportatori al mondo, che ha una sua solidità patrimoniale che non è conteggiata, che non ovviamente così è smentita dal debito pubblico, ma che sta nello stato di famiglia di questo paese, verrà valorizzato. Questo certamente, però si può fare, si deve fare subito e bene, cioè questo è un punto irrinunciabile. Si può dire, ed è giusto, che non ci piace, legittimamente non ci piace essere alla mercé dei mercati, ma in queste ore noi dobbiamo dare le risposte giuste ai mercati, non abbiamo alternative. Sempre nel fondo di qualche giorno fa, io dicevo che anche il Presidente del Consiglio poteva e doveva compiere un gesto importante, cioè il gesto di investire la sua forza politica in questo sforzo, che non è solo uno sforzo tecnico perché è riduttivo, è uno sforzo in nome della causa italiana. Questo secondo me è un gesto che Berlusconi può ancora compiere. Nulla impedisce a Berlusconi di dire al suo partito: impegniamoci politicamente per dare sostegno a scelte anche ovviamente molto impopolari, ma assolutamente necessarie. E per questa settimana con Economia in Europa è tutto. Economia in Europa, in collaborazione con Euronet.